nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuno è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 dedicato alle donne e ai temi del lavoro. Programma che ha la smisurata ambizione di ridimensionare addirittura un mito, il mito del multitasking, una delle più grandi fregature inventate, io l'ho sempre sospettato, per farci sentire inadeguate. Comunque non è che sia sempre colpa degli altri, non è che le donne non ci mettano pure del loro, come no, ci mettono del loro e spesso si complicano la vita, partono bene e poi fanno il classico passo falso che appunto le mette in cattiva luce, pensando per l'appunto a loro che abbiamo, voi lo sapete, inventato il premio Donna Imperfetta della settimana, un premio dove non si vince niente tranne sorbirsi le nostre chiacchiere imperfette. Chi è la donna imperfetta della settimana? Sentite. Sono libera, libera, come una nuvola nel vento che si dondola. Unica, unica, come la luce della luna quando illumina. Libera, ma libera di che? Anna Tatangelo, cantante, compagna di Gigi D'Alessio, libera di che? Di fare, di rinnovare per l'ennesima volta la cosa conformista di mostrare un seno nudo con la scusa della buona causa? Donna imperfetta della settimana è per l'appunto Anna Tatangelo, perché ha scelto la notorietà di un attimo invece di fare un salto di qualità. Lei, cantante popolare, amatissima, eccetera, ma poteva anche aggiungere qualche elemento di novità al suo personaggio. Invece no, ha posato nuda, sexy, per la campagna della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Obiettivo: prevenzione al seno, prevenzione del tumore al seno. Risultato: hanno parlato del suo di seno. Allora, è ovvio, lo sappiamo tutti, l'ha fatto perché così si parlava di lei e c'aveva anche la scusa della buona causa. Ma una volta di più ha confermato che sono le donne le prime a non credere in se stesse, le donne che continuano a pensare: se qualcuno si occupa di me perché ho un bel seno, un bel faccino, un bel sedere. È come se si fosse incistata nella testa di alcune donne, non solo in Italia, vale anche per gli Stati Uniti, ed è una specie di lavaggio del cervello che ancora funziona. Oh, attenzione, io non sto parlando del nudo, per carità, il nudo è la cosa più conformista, banale, conservatrice che ci sia in questo momento. Pensate che perfino Playboy ha deciso di rivestire le sue modelle in copertina perché dice che ormai il nudo non fa più notizia. Il punto è un altro. Anna Tatangelo, donna imperfetta della settimana, aveva la possibilità di fare notizia per qualcosa di diverso del suo corpo e del suo seno, e invece ha fatto notizia col solito vecchio conformista, narcisista, furbetto sistema. Post scriptum. Un pensierino lo rivolgerei affettuosamente anche ai promotori della campagna. Sospetto che ci sia qualche uomo tra loro. Devono essersi detti: wow, che figata, così parleranno tutti della Tatangelo. Giusto, infatti, hanno parlato della Tatangelo, ma del contenuto che volevano veicolare non gliene è fregato niente a nessuno. Qui a Nessuno è Perfetta celebriamo l'elogio dell'imperfezione, e mi piacerebbe sentire di quante imperfezioni si è accorto in pochi minuti il nostro agente provocatore della settimana. Questa domenica è niente di meno che Vittorio Sgarbi. Buona domenica. Eccolo. Allora, intanto l'idea della donna imperfetta della settimana, il premio ad Anna Tatangelo, ti trova d'accordo? Conosco bene, sono un buon amico di Gigi D'Alessio, l'ho visto anche l'altra sera, mi pare che abbia una moglie bella e intelligente, non ho saputo nulla però, quello che tu mi raccontavi l'ho preso da te, quindi non ha avuto questa penetrazione, ha bisogno che mi sia distratto, però non sono d'accordo in generale su una cosa, partendo dall'idea che l'uomo e la donna sono uguali per capacità, diritti, e tutto quello che le donne hanno dimostrato soprattutto negli ultimi 30 anni. ma che anche prima c'era, perché io sono nato nel 52 e mia madre era già superiore a mio padre, in tempi in cui i diritti erano non garantiti. L'idea che la donna, che oggi è come l'uomo, abbia il di più della bellezza è un valore che non deve comprimere in nome di quello che non ce l'ha. Cioè, nel mondo moderno l'uomo esibisce la testa e le mani, la donna esibisce comunque la testa, le mani, sì, è vero, posteriore, le caviglie, quella parte di sé in più è in più, non è in meno, non è in sottrazione, è in addizione. Sì. Per cui se una donna, ma non è un vecchio stile quello di far parlare di sé per il seno. Non volevo dire che non l'abbia fatto per quello, volevo dire che se ce l'ha è bene che lo usi, perché è un potenziamento. Se non ce l'ha è come un maschio, ma la donna è oggi come un maschio, in più è anche bella. Eh beh, però in infatti anche gli uomini belli usano di questo. C'è un altro aspetto che volevo affrontare con te, sia pure rapidamente, Vittorio. La novità di queste settimane è che la Food and Drug Administration americana ha approvato il flibanserin, meglio noto come Viagra rosa. Ci sono state molte critiche perché è un farmaco non particolarmente sicuro, potrebbe causare effetti collaterali, ma soprattutto, e ne ha scritto la giornalista inglese Lori Penny, che è anche una columnist del Guardian, il punto è questo: non è che ci fosse tutta questa massa di donne che premevano sulle case farmaceutiche perché inventassero il Viagra rosa. La verità è che le case farmaceutiche hanno visto il grande successo del Viagra per maschi e hanno detto: siccome ci sono una marea di donne, magari di mezza età, che francamente farebbero dell'altro, vediamo di convincerle, dopo lo stress, dopo il lavoro gratis che fanno come casalinghe, eccetera, a dire di sì anche al sesso. E se non vogliono, possiamo sempre drogarle, appunto, con questo Viagra rosa. Ma sai, purtroppo, perché io sia molto curioso e abbia molto frequentato le donne, ne conosco, come tutti i maschi, poco, nel senso che conosco la mia sessualità e ne conosco il limite, che è la ragione del Viagra e delle altre pillole, che è quello di erezione. Cioè, se tu hai una fatica ad avere l'erezione, quello è ciò che ti dà il Viagra. La donna questo problema non ce l'ha. Allora, il desiderio della donna, in che modo è un elemento essenziale? Dall'esperienza che ho io, per esempio, la mia fidanzata è una donna molto sensibile, secondo me ha una bassa sessualità, tant'è che... E tu le suggeriresti il Viagra rosa? No, non glielo suggerirei, ma credo che non le interessi, quindi non credo che le donne siano così fesse, mentre l'uomo, oltre ad essere fesso, ha il problema materiale dell'erezione. La donna, se ha desiderio, ce l'ha, se non ce l'ha, non lo cerca. E infatti con questa pillolina vorrebbero convincerlo a farselo venire per forza. Io non credo che sia così fessa, però non so che utilità. Cioè, tu sei una donna, puoi fingere oppure puoi godere, però siccome non ne hai la necessità, perché se io non ce la faccio ho bisogno delle lezioni, tu invece puoi fingere, che tu abbia un debole desiderio non ti fa diventare desiderosa di averlo più forte. Per cui secondo me non avrà successo, però quindi, non lo so, perché per noi è un fatto essenziale, per voi è un fatto facoltativo. Cioè, una donna, non so, se aumenta il desiderio, che ne ha un pochino, una che non ce l'ha affatto, non lo cerca. Quindi una tu scommetteresti sul successo del Viagra rosa in farmacia? No, sono convinto che sia un fallimento. Torneremo magari a parlarne e intanto ti auguriamo una buona domenica, grazie per essere stato con noi, a Nessuno è Perfetta. Grazie. E adesso un attimo di pausa prima di tornare, sempre con Nessuna è Perfetta. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Nessuna è Perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento, lo sapete, della nostra Sunday Girl. Reduce da un tour in giro per l'Italia con Sono nata il 23, il suo spettacolo teatrale che fatto registrare, c'era da aspettarselo, il tutto esaurito, e che riparte ai primi di novembre, è con noi Teresa Mannino, attrice, comica, presentatrice e donna molto simpatica. Buona domenica, Maria, Teresa. Buona domenica, non potevo mancare perché io dell'imperfezione ho fatto la mia forza, quindi direi che sono perfetta per voi. E questa è la nostra astuzia. Noi dichiarandoci imperfette, come dire, cerchiamo astutamente di mantenere una certa autodifesa. Senti, io non so se hai potuto ascoltare la prima parte di questa trasmissione, ma mi sono veramente concentrata sul premio di questa domenica, il premio Donna Imperfetta di Nessuno è Perfetta, che è andata ad Anna Tatangelo, perché ho detto, ancora una volta, solo in Italia resiste l'idea che il nudo sia trasgressivo e che così facciamo parlare di noi. E Anna Tatangelo, che ha partecipato alla campagna per la prevenzione al tumore al seno, quella della LILT, ha fatto parlare di sé per il fatto di essere a seno nudo, ma tutto sommato ha dato ancora una volta un'idea molto vecchia, molto tradizionalista e molto insicura delle donne che fanno parlare se si spogliano, proprio come però, 30 scusa, anni fa. Maria, bel colpo per la LIL, che comunque ha fatto parlare della sua campagna, e quindi sicuramente tutti attenti. Allora, complimenti a chi ha avuto questa idea, è molto semplice e banale in effetti, però nello stesso tempo ha ottenuto il risultato. Non sempre i mezzi non sempre il fine giustifica i mezzi, però non lo so, io non lo so se... non me lo chiede mai nessuno di spogliarmi, non lo so se è un problema di fisico, di disponibilità, non lo so. Vuoi mandare in giro una specie di release, così ma vediamo se... un calendario. Fatti un calendario da sola. Me lo faccio da sola, me lo tengo a casa. Senti, un altro tema su cui mi sono concentrata è questa novità del Viagra Rosa, che pare che vogliano a tutti i costi realizzare una presunta parità uomo-donna, che però è una parità che nessuno gli ha chiesto, pure sul Viagra. Siccome il Viagra azzurro, quello per gli uomini, è andato molto bene in farmacia, allora adesso la Food and Drug Administration ha buttato sul mercato il, non ancora, ma insomma ha dato il via libera al cosiddetto Viagra Rosa. Chi lo dovrebbe, intanto come funziona? Cioè, è una pillola che in quel caso è un problema di vasocostrizione, quindi vabbè, più facile, c'è una specie di carrucolina chimica che aiuta, ma nel nostro caso poi chi ne ha bisogno? Io no, sicuramente perché sono appostissimo così. Tu notti di fuoco e perché pomeriggio, mattine, è tutto a tutte le ore tranquillamente, e quindi non mi compiaccio, non so, sono ammirata, ma perché è una cosa mentale, quindi come fanno, non lo so chimicamente come possono aiutarci, però... La giornalista inglese Lori Penn ha detto, ma insomma, possibile che con tutto lo stress, le preoccupazioni, il lavoro che le donne devono fare gratis, adesso le vogliamo pure obbligare a dire di sì, sempre, al sesso, e se non vogliono le droghiamo. No, ma non è chiaramente, non è un problema dire sempre di sì, perché sarebbe, come si dice, una violenza, no? È ovvio che qui si propone come aiuto, come nel caso degli uomini che hanno un po' sta mania anche, è un problema per loro quando la prestazione cala. Nel nostro caso non c'è questo problema, perché noi abbiamo già un Viagra Rosa che abbiamo inventato tanti e tanti secoli fa, cioè fingiamo, sappiamo fingere, quindi anche in quel caso... cioè, a che serve? Penso che non avrà un grosso mercato, secondo me. Ma la pensi problema. Come Vittorio Sgarbi? Anche tu hanno pensi... investito male. No, tra l'altro l'idea è, siccome c'è a una certa età, magari dopo i 50 anni, le donne cominciano a dire, senti, non è proprio in cima ai miei interessi. Funziona così, ma no, per fortuna che ne devo fare solo 45, c'ho ancora 5 anni di divertimento, allora. Senti, ma... Se la questione, Viagra Rosa è un cattivo investimento per le case farmaceutiche che hanno, pensano che sia interessante per le donne, ma in realtà mi pare di capire che anche tu non sia così convinta. È anche vero che l'hanno posta come una questione femminista, no? Per dire, ecco, sullo stesso piano l'orgasmo delle donne e l'orgasmo degli uomini. È una grande fregatura, perché lo scopo del femminismo sarebbe quello di, no, di dare più potere alle donne. Ma non... la pubblicità è una grande fregatura, nel senso che in tutte le pubblicità di qualsiasi tipo, qualsiasi proposta che nasce dal marketing, nasce per fregarti. In questo caso hanno utilizzato questa chiave. È ovvio che chi più attento sa benissimo che non può passare dall'orgasmo alla parità, nel senso che è giusto che per le donne si ponga il problema del piacere, nel senso che non può essere fatto per gli altri, ma penso che noi, parlo della società occidentale, siamo a quello ci siamo arrivati. Non tutti, però diciamo che ci siamo arrivati. È un po' più una fatica che fa la femmina ad accettare questa cosa, di non fingere, ma di appunto provare piacere nel lasciarsi andare nell'amare. Però è ovvio che è una presa in giro, ma la pubblicità fa quello di mestiere, prenderci in giro. Ti vende quello che non è. Tu all'inizio... E io ne so qualcosa. Certo. Tu all'inizio ti sei presentata come massima esperta di imperfezione. Ce ne dici qualcuna delle tue? Perché non si vedono? No, mi sembra perfetta. Le mie imperfezioni spesso ho fatto all'inizio, soprattutto cabaret, partendo proprio dall'autoironia, quindi mi prendevo in giro da sola per evitare che lo facessero gli altri. Poi era appunto, come dicevi anche tu, un'autodifesa che avevo da ragazzina, cioè non rientrando nello stereotipo della bellezza femminile siciliana, quindi prosperosa. Mi trovavo spesso attaccata per questo, e quindi ho cominciato a prendermi in giro da sola, e in realtà poi l'autoironia e questa forza che ti dà ti rende attraente, ho scoperto, e quindi insomma ho avuto un doppio vantaggio. Insomma, ci hai detto che passi notti di fuoco, ormai sei anche diventata come dire, non c'era dubbio su questo, ma considerata una sexy comica. Dacci qualche spunto su come usare tutte queste imperfezioni e farle diventare dei punti di forza. Ma io penso che la cosa che mi ha aiutato di più è una cosa che mi hanno insegnato poi in famiglia, in fondo era un atteggiamento diffuso, che era quello di non porre troppa attenzione al giudizio esterno e concentrarsi su se stessi, e quindi non però questo con narcisismo, ma proprio essere critici e capire che quello che succede fuori può avere, insomma, se ti dicono qualcosa non necessariamente è effettivamente rivolto a te, no? E quindi insomma prendersi in giro, quello aiuta sicuramente. Poi non considerare troppo quello che dicono gli altri, se non ne vale la pena, sono poche le persone da ascoltare. È quello che dirai anche ai bambini che incontrerai nel nuovo programma di Radio 2, Il mondo della scuola. Gli spiegherai, girando per le scuole d'Italia, che spesso ascoltare o farsi un problema di quello che pensano i compagni crea tante ansie e stress inutili? Beh, quello è vero, che spesso i bambini fanno una fatica tremenda, proprio perché ci fanno condizionare tanto da quello che succede in classe e da quello che dicono gli altri, no? Basta una risata può ferirti tantissimo. Però no, io in questo caso non dico niente, ascolto loro, perché mi piace, proprio non perché li reputi dei saggi i bambini, perché i saggi per me sono gli adulti che hanno, insomma, i novantenni che hanno cose da dire, ma è proprio, mi piace ascoltarli perché sono sicuramente originali, cioè ti spostano il punto di vista, e questo mi aiuta, allora ascolto loro. Senti, siamo veramente in chiusura, e siccome tu hai esordito dicendo che del Viagra non ne hai bisogno, siamo tutti molto Viagra rosa, siamo tutte molto colpite da questa tua assertività, ma come reagiresti se invece il tuo compagno ti dicesse: scusa, ma perché non te la compri quella pillolina? No, è impossibile, poveretto, non credo proprio che si porrebbe questo problema, no, sarebbe un pazzo, no, secondo me mi proporrà cose più... Una camomilla. Ecco, una camomilla, una bella tisana rilassante, No, il Viagra Rosa non credo. Grazie a Teresa Mannino per essere stata con noi a Nessuna Perfetta. Buona domenica e buon viaggio tra i bambini delle scuole italiane con il mondo della, con Ultimo Banco, questo Ultimo nuovo programma Banco, sì, che partirà il, a breve. È già partito, andiamo in onda il sabato e la domenica sera alle 19, che facciamo? Vi facciamo la concorrenza, non a voi, però insomma a Radio 24. Buona domenica Teresa, grazie. Grazie anche a te. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, siamo sempre a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 e come di consueto è il momento della domanda della settimana. A questo proposito, io sono sempre molto curiosa degli spunti che arrivano da voi perché siete voi i maggiori conoscitori dei problemi che vivete. Allora, mandateci i vostri problemi, la domanda della settimana, scrivendoci una mail a Nessuna è perfetta, senza accento, Nessuna è perfetta, @radio24.it, oppure ci potete anche segnalare su Twitter qual è un vostro problema e noi lo terremo assolutamente in considerazione, l'hashtag Nessuna è perfetta, oppure anche Facebook. Qual è il problema della settimana? Ce lo propone una giovane in dubbio. Perché? Perché ha ricevuto una bella proposta, ma le belle proposte di lavoro spesso accompagnano anche delle problematiche. Sentite quale. Lavoro nella sede italiana di una grande banca straniera. 2 settimane fa mi è stata offerta una promozione, ma per conquistarla dovrei trasferirmi nella sede che si trova a Londra e quindi cambiare città e paese. Da allora mi interrogo sugli aspetti positivi e quelli negativi. I positivi: tutti i miei amici mi dicono che fortuna, vai a Londra, farai più carriera e avrai un'esperienza internazionale. Sì, è vero, ma ho un fidanzato e non so se riuscirà a seguirmi. A Londra non ho veri amici. La città mi piace, ma mi spaventa un po' il fatto che, essendo molto costosa, forse non potrò mantenere il tenore di vita molto soddisfacente che ho adesso a Milano. Emigrante incerta. Che cosa possiamo consigliare, suggerire a emigrante incerta che vive un dilemma che accomuna sempre più uomini, giovani, donne che lasciano l'Italia perché hanno una prospettiva migliore? A parlarne sono 2 esperti, molto esperti: Francesca Pranstraller, docente di risorse umane e organizzazione all'Università Bocconi, ma anche autrice di un libro che proprio di questo parla, di come vivere all'estero e affrontare meglio la novità. Il testo si chiama Vivere all'estero, guida per una relocation di successo ed è pubblicato dalla casa editrice Egea. L'altro esperto, sapete che abbiamo sempre una coppia uomo-donna, è l'amministratore delegato di Carlsberg Italia, Alberto Frausin. Benvenuti a tutti e due, buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Francesca Pranstraller, tu hai vissuto all'estero, ti sei, come dici, rilocata e anche con successo. Qual è la prima cosa che suggeriresti alla nostra ascoltatrice per funzionare subito, da subito o al più presto in un paese con culture e abitudini diverse? Perché è vero che a Londra vivono un sacco di italiani, un sacco di francesi, però il contesto professionale è pur sempre un po' anglosassone ancora. Sicuramente. Allora, per prima cosa direi che il mio suggerimento sarebbe sicuramente di accettare l'opportunità per una serie di ragioni. La meta Londra, tutto sommato, è una meta abbastanza facile. L'adattamento culturale c'è, ma è relativo, nel senso che diciamo è comunque un paese europeo, non una mentalità troppo distante dalla nostra, soprattutto nelle pratiche manageriali, che sono poi le nostre, sono derivate da quelle americane e inglesi, quindi questo non è un grosso problema in termini di adattamento. È anche una meta, diciamo così, che rende abbastanza facile l'espatrio, perché sia che il fidanzato si voglia trasferire, non è un luogo in cui è difficile trovare un lavoro, anche per il partner, sia che invece voglio restare a Milano e comunque c'è una grossa possibilità di fare commuting, quindi comunque Sono non è così. 40 minuti, un'ora di volo da Milano, insomma. Non è così problematico. Quello che direi di fare però sono due cose immediatamente. La prima è di chiedere ovviamente alla propria azienda se c'è la possibilità di avere quello che noi chiamiamo dual desk, cioè lavorare a Londra ma rientrare nella sede milanese per esempio il giovedì sera, no? Lavorare il venerdì da qui. E quindi in questo modo attutire un po' l'impatto del trasferimento completo se appunto il partner non potesse seguirla. La seconda cosa è che sentivo dalla domanda che la nostra diciamo protagonista era molto preoccupata per l'aspetto diciamo, di tenore di vita. Londra è molto costosa, infatti. Sì, però questo problema non esiste per chi viene trasferito dall'azienda. Cioè se la proposta di spazio arriva dall'azienda, come nella gran parte dei casi, è una prassi assolutamente consolidata quella di adeguare lo stipendio al costo della vita del luogo in cui si viene trasferiti. Quindi da questo punto di vista esiste proprio diciamo così, una modalità standard per la quale si prende riferimento al tenore di vita italiano e si adatta la retribuzione ottimo, al luogo in cui si va a vivere. Ottimo da sapere, così si fa una bella negoziazione mostrando qual è il tenore di vita di cui la nostra ascoltatrice gode a Milano. Alberto Frausin, dal punto di vista di un capo azienda, se una ragazza, un giovane insomma di belle speranze dice no a un'offerta di trasferimento all'estero, qual è la reazione del capo? Confesso una reazione negativa, nel senso che come ha detto giustamente prima la professoressa, sicuramente Londra è una delle città più facili dove essere trasferiti per tutta una serie di ragioni che lei ha elencato e che non ripeto. E quindi in qualche modo il fatto che, e poi è il centro finanziario, sta parlando di una banca, quindi in qualche modo lei va nel centro del mondo oggi, insomma vuol dire con New York sono le due capitali del mondo di riferimento. È importante, secondo me, che le nostre persone, soprattutto quelle di potenziale in gamba, abbiano esperienza internazionale, quindi non è che lo si fa giusto perché mandiamo lì qualcuno, quindi è anche un patrimonio che le aziende investono, come giustamente è stato ricordato, molto spesso queste persone sono aiutate, dipende evidentemente dall'organizzazione dove vivono, ma hanno le case, hanno tutta una serie di benefit che evidentemente rendono queste trasferte meno onerose. Quindi per chi fa, per l'azienda che fa questa scelta è un grande investimento. Quindi pur evidentemente capendo i fatti personali che sono, voglio dire, la vita non è solo lavoro, quindi è giusto mantenere un minimo di equilibrio, però se uno ha un'età giovane e quindi in qualche modo non è ancora sposato, non è disposto in questo momento a fare un cambio, in realtà rischia di essere anche penalizzante per il suo sentiero di carriera, anche se dovesse rimanere in Italia. Cioè insomma in qualche modo poi gliela farebbero un po' pesare se dicesse. Penso di sì. È molto probabile, diciamolo così. Proviamo ad allargare un po' il raggio, non solo Londra. Molti giovani e molte giovani laureate o hanno già esperienza di lavoro sono in dubbio se andare, per esempio, molto più lontano che a Londra, per esempio andare in Cina, per esempio andare in Australia. Allora, Francesca Pranzalle, quando c'è di mezzo una scelta più radicale. Una donna con famiglia, per esempio, come può affrontare? Perché molto probabilmente una donna con famiglia alla quale viene offerto di trasferirsi nella sede, faccio per dire, di Shanghai o a Singapore, vive un dilemma molto più forte di quanto non viva la nostra ascoltatrice alla quale è stato soltanto offerto di andare a Londra. Ma assolutamente sì, tant'è vero che diciamo le statistiche sulle donne espatriate a livello manageriale non sono particolarmente incoraggianti, siamo sempre una minoranza perché appunto i problemi che si pongono sono problemi comuni a quelli degli uomini per quanto riguarda i problemi di adattamento che nell'esempio che facevi tu con la Cina, per esempio, sono problemi di adattamento importante. Più la cultura è, diciamo, distante, più questo processo di adattamento, non soltanto alla vita quotidiana, ma anche alle pratiche manageriali e alla cultura nazionale del paese ospite, diventa difficile. In più, per le donne nascono tutta una serie di barriere anche dal punto di vista della carriera. Prima di tutto farsi scegliere dall'organizzazione, che è sempre la prima e più grande barriera da superare. Perché in genere non tengono in conto il fatto che una donna possa dire con entusiasmo sì, vado in Cina. Molto meno. Tutte le ricerche ci dimostrano che una cosa che le aziende fanno è spesso dare per scontato che le donne diranno di no e quindi non fare neppure la proposta. E in questo caso come si fa a far presente che invece uno vuole andarci? Bisogna proprio chiedere, questo è il tema. Ci sono dei bellissimi articoli che dimostrano, con ricerche anche recenti, che mentre agli uomini viene chiesto, le donne devono chiedere. Per le carriere internazionali. Il secondo problema è la famiglia a seguito, ovviamente, perché certo. La famiglia a seguito è sempre, diciamo così, un elemento estremamente importante e delicato dell'espatrio. Solitamente siamo abituati a pensare a un uomo che espatria portandosi dietro moglie e figli. Il viceversa è molto complicato, perché sappiamo che gli uomini sono più resti a lasciare la loro posizione per seguire le compagne delle loro carriere internazionali. È un problema che ha bisogno di quale supporto? Per esempio l'azienda, e qui vado da Alberto Frausin, è mai capitato come amministratore delegato di Carlsberg o in altre aziende che un uomo venisse da lei e dicesse devo seguire mia moglie all'estero? Allora, faccio una premessa. Credo che quello che è stato detto è assolutamente corretto, ma va inquadrato nei paesi di origine latina. Nei paesi di origine anglosassone, secondo me, siamo più avanti. Io ho molti casi nelle aziende in cui ho vissuto di donne che... Allora, è difficile, è praticamente impossibile in caso di trasferimento che sia i due coniugi siano in carriera. Quindi, normalmente, uno dei due deve fare un passo indietro, uno step back, cioè, voglio dire, non c'è alternativa. Per esempio nella cultura americana dove ho vissuto ho tantissimi esempi in cui le donne per una serie di motivi erano più in gambe, più preparate eccetera, e quindi erano i mariti che facevano un passo indietro. Mi ricordo perfettamente quando vivevo negli Stati Uniti che a un certo punto mi sono accorto che a venire a tagliare il mio giardino era il marito di una persona che era vice president all'interno dell'azienda, perché si accetta. Ecco, da noi evidentemente in una cultura latina quello che il marito faccia un passo, è l'uomo che deve in qualche modo portare avanti la famiglia eccetera, quindi c'è un po' di amor proprio, c'è tutta una cultura che rende questo passaggio più difficile. Quindi dipende un po' da dove si inquadra, ma io ho nelle aziende multinazionali in cui ho lavorato tantissimi esempi di donne che si sono spostate. Uno dei due ha nella cura dei figli un lavoro full time, non un lavoro, l'ho vissuto per esperienza personale, mia moglie che lavorava in Italia mi ha seguito in due cambi su tre che ho fatto, mi ha seguito negli Stati Uniti e dedicava praticamente tutta la sua giornata a seguire i figli. Qui siamo in chiusura, chiedo proprio solo un minuto a Francesca Pranstraller. È anche vero, fare dell'esperienza all'estero, perché Francesca Pranstraller è stata all'estero al seguito di un marito che era stato trasferito lì, ma è stata anche l'occasione per scrivere libri, per fare un passo ulteriore nella sua carriera. Certo, io per esempio ho sicuramente seguito i figli, però mi sono presa anche un'altra laurea, sono andata all'università, ho fatto un master in una delle migliori università americane, quindi in realtà, voglio dire, per donne che lavorano poi dopo un po' di tempo il fatto di stare solamente a casa e rinunciare completamente alla propria identità lavorativa, sociale, eccetera, è abbastanza difficile. Non sono completamente d'accordo sul fatto che sia solo un problema dei paesi latini. È vero che nei paesi anglosassoni c'è più apertura all'alternanza dei ruoli sulle carriere, però se poi andiamo a vedere i dati smentiscono che ci siano percentuali molto superiori di carriere femminili internazionali nei paesi anglosassoni rispetto ai paesi latini, quindi stiamo parlando di percentuali comunque quindi molto basse. C'è ancora molto da fare anche lì. Allora io ringrazio Francesca Pranstraller, ricordo a chi ha intenzione di andare a vivere all'estero che ha scritto un libro su questo tema, Vivere all'estero, guida per una relocation di successo. Ringrazio Alberto Frausin, CEO di Carlsberg Italia, e vi do appuntamento tra pochissimo. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete sentito il problema che è stato raccontato dalla nostra ascoltatrice, è un problema che riguarda tanti, perché tanti in questi anni, in questi momenti si pongono la questione andare via dall'Italia, e se capita di fare magari una buona scelta professionale, quanto ci rimetto sotto l'aspetto invece della vita personale, che pure conta. Se avete problemi che hanno a che fare col vostro mondo professionale, ve lo ricordo, potete scriverci a Nessuna è perfetta senza accento @radio24.it. Potete mandarci un sms al 349-238-6666 o commentare su Twitter con l'hashtag Nessuna è perfetta, e anche su Facebook naturalmente. È il momento di capire come la nostra ascoltatrice, che si chiede andare o no a Londra per una bella occasione di lavoro, può essere aiutata dalla coach della domenica. Questa domenica è con noi Maria Serena Ciambellotti di Lares Consulting. Buona domenica. Maria Serena, ci sei? Certo che ci sono, buongiorno. Ecco. Allora, la questione sembra apparentemente facilissima. La banca vuole mandare a Londra, quindi possibilità di carriera eccellenti, come dicevano i nostri due esperti, Francesca Pranstraller, docente della Bocconi, e il CEO di Carlsberg Italia, Alberto Frausin, sono occasioni che non si possono perdere. D'altra parte però c'è anche un elemento personale, intimo. Come capire quando siamo predisposti al cambiamento o pronti al cambiamento? Certo, in effetti è proprio questa una situazione tipica, dove quindi si presenta una grossa e interessante opportunità dal punto di vista professionale, che deve essere, che è necessario bilanciare con quello che è proprio la vita privata. Si parla infatti, no, di work-life balance non a caso. Come fare? Quindi il percorso, come dire, che indicherei è porsi una serie di domande che aiutino a comprendere che tipo di risorse si hanno già in essere rispetto ad un cambiamento, e quindi fare una valutazione su il tipo di famiglia dalla quale si proviene, il tipo di esperienza di vita dalla quale si proviene, e quindi sono abituato a cambiare città perché già i miei genitori, ad esempio per lavoro, per scelte di vita privata, personali, hanno cambiato più volte città. È più facile cambiare paese se uno viene da una famiglia mobile che ha fatto tanti cambiamenti, o no? Diciamo che c'è una predisposizione, naturalmente poi questo dipende da come è stato vissuto all'interno della famiglia di provenienza il cambiamento. Se ogni volta che si è cambiato città o paese addirittura la famiglia di provenienza ha subito dei grossi traumi, chiaramente la persona che ha vissuto quel tipo di esperienza sarà più resistente, certo, al cambiamento. Cara coach, uno dei problemi del cambiare paese è che si lascia una cerchia affettiva. Se è una donna a dover fare questa scelta, magari pesa anche di più, perché per esempio nella lettera che abbiamo citato prima, il fidanzato molto probabilmente non la seguirà. Le donne seguono quando un compagno, un marito va all'estero, è molto più complicato per un uomo, quindi c'è il rischio di dover affrontare un cambiamento professionale e una rottura sentimentale. Per le donne è un peso questo. Certo, beh, sono convinta che lo abbia anche per gli uomini, che sia un peso anche per gli uomini. Tuttavia la riflessione che si può fare è darsi un tempo entro il quale trarre un primo bilancio, no? Quindi dirsi: ok, allora adesso nel qui ed ora la mia situazione è tale per cui me la sento di chiedere al mio compagno di vita, fidanzato, marito che sia, di vivere il rapporto a distanza per cogliere l'opportunità professionale. Riparliamone con calma, facendo un po', no, l'elenco dei pro e dei contro, come ha già molto intelligentemente fatto la nostra ascoltatrice. Riparliamone tra 6 mesi, vediamo cosa sta funzionando, cosa non sta andando come pensavamo, perché solo con mettersi in gioco l'esperienza sul campo si possono poi fare queste valutazioni, sia da una parte che dall'altra, sia dal punto di vista quindi professionale, l'occasione mi sta veramente dando quello che pensavo mi avrebbe dato, sia dal punto di vista privato, personale, come reggiamo come coppia, come individuo a questa separazione? Abbiamo magari rivitalizzato il rapporto oppure langue la storia e quindi altri sono gli scenari che si possono aprire? Qual è nella scelta alla fine la cosa che pesa di più? Come coach avrei visto tanti di queste occasioni. Diceva prima l'amministratore delegato di Carlsberg Italia, Frausin, io come capo, come amministratore delegato, se do una possibilità a un giovane di fare un balzo di carriera così importante internazionale, mi sento dire di no, poi valuto negativamente. Quindi ci possono essere anche dei contraccolpi negativi se uno decide di non andare. Beh, indubbiamente nel momento in cui l'azienda ripone una fiducia e offre un'opportunità alla persona, alla donna che quindi si vede invitare, no, verso questa nuova prospettiva professionale, il rifiuto, anche se motivato, può essere letto come una mancanza di disponibilità, questo indubbiamente. Anche lì nel rifiuto, il modo in cui il rifiuto viene presentato può, anziché chiudere una porta, no, creare una sorta di eventualmente momento di stand-by. Che cosa potrebbe dire? Beh, intanto motivare il suo rifiuto rispetto al progetto di vita privata che eventualmente la donna ha in mente. Ma questo quindi, non è un boomerang? Io trovo che la spontaneità, io trovo, ma non solo io, cioè la spontaneità, l'autenticità e il sentirsi e comportarsi quindi in modo allineato rispetto a quelli che sono i propri valori, nel caso della vita di coppia o della famiglia, quindi come nel caso di questa ascoltatrice che è nel dubbio, manifestarli non è uno svantaggio professionale. No, trovo che non lo sia, cioè può creare dall'altra parte una piccola delusione iniziale perché dici caspita, avevo il candidato, la candidata ideale e mi dice di no. D'altra parte, mentre me lo dice, mi dice anche che non è che non creda nel progetto che l'azienda le stia proponendo o che non si senta gratificata della proposta, semplicemente a livello valoriale ci sono delle condizioni. Delle priorità. Grazie, ti ringrazio davvero, grazie alla nostra coach Maria Serena Ciambellotti che è stata con noi anche questa domenica e buona domenica a lei e buona domenica a voi tutti che ci avete seguito, ricordatevelo. Questa è una domenica e un po' di relax ci vuole, non concedetevi anche questa domenica un eccesso di multitasking perché il multitasking è una grande fregatura.